Buongiorno. Sarà stato pure un buongiorno, però detto così, dici, ma... Sei contento di essere qui? Sì. Era meglio al mare? Ma come siete preparati bene, oh. È proprio la lezione, l'abbiamo imparata, bellissimo. Ma quante ricchezze abbiamo, se mancavi, mancavi la benedizione per Marta, che è l'orgoglio più grande che noi possiamo avere. Quanti doni noi abbiamo. E poi, più di ogni cosa, mancavi di incontrare me. Sei venuto per questo? E no, qua doveva essere no. Scusi, sei venuto per il Signore, non per incontrare me, anch'io. Ma andiamo subito alla parola, dove possiamo sperimentare quello che il Signore ha in serbo per noi. Ma prima una domanda, non domanda. Quando hai una forte preoccupazione o hai avuto uno spavento o addirittura una notizia shock, che cosa ti accade? A me mi si secca la gola e la bocca diventa amara. Lo sperimentate anche voi? Quando ricevi una notizia, proprio immediatamente, eppure stavi bene un minuto prima, e poi causa questo, bocca amara, gola secca. Sapete che questa è stata l'esperienza anche, e di questa storia vogliamo servirci per vedere le soluzioni di Dio, per come risolve Dio le situazioni, perché noi dobbiamo entrare nella pratica e non solo predicare una parola che ci permette di conoscere belle notizie, belle cose e non sappiamo che cosa farne. Saveri ha detto, ha iniziato, ha esordito dicendo leggi la Bibbia. Io finisco, leggi la Bibbia. Perché? Perché lì è la vera soluzione che Dio ha per me. E per te, il popolo di Israele, vogliamo leggere questa storia? Si trova in Esodo al capitolo, poi ve la potete leggere anche con più calma, al capitolo 15, è un po' più lunga dal 22. Ma sicuro che questa è dal 22 al 27? Io credo che è più lungo. Ecco, è allungato. Io lo devo vedere in due volte. No, come se... Va troppo avanti a me queste cose. Come devo fare? Le dovevo dare pure prima le notizie, invece l'ho data adesso, quindi scusate gli inghippi. Poi Mosè, è una storia che conosciamo molto bene. Il popolo di Israele era uscito dall'Egitto. Avevano attraversato il Mar Rosso e si erano incamminati nel deserto. Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Shur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Mara, non potevano bere l'acqua di Mara perché era amara. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: che berremo? Egli gridò al Signore e il Signore gli mostrò un legno. Mosè lo gettò nell'acqua. E l'acqua divenne dolce. È lì che il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione e lo mise alla prova dicendo: se tu ascolti attentamente la voce del Signore, che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che inflitta agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Poi giunsero a Elim, dove erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, e si accamparono lì presso le acque. Che storia, eh? Il popolo di Israele. 3 giorni nel deserto. Altro che bocca a gola secca e bocca amara. Sapete quando può resistere un uomo senza bere? Un uomo senza bere di 70 kg può resistere massimo una settimana e deve stare a 15 gradi e nutrirsi molto di verdure fresche. Questo lo facevano nel deserto, raccoglievano le verdure fresche e mangiavano. Quindi voi immaginate, è già un miracolo che questo popolo non è morto per la sete, perché 3 giorni equivaleva a 3 settimane, perché loro marciavano e non bevevano ed erano sotto il sole cocente che veniva da sopra e da sotto. Questo stava vivendo il popolo di Israele. E poi incominciarono a questo termine lo conosciamo molto bene, incominciarono a, come facciamo noi, per ogni piccola cosa, se non è cotta è cruda. Vedete, in questo periodo con la politica, Non facevano, fanno e fanno, non si sa mai quello che è buono e quello che non è buono, e così anche in famiglia e dappertutto, mormorarono. E Mosè che cosa fece? Quello che facciamo anche noi, grida a Dio. Come gridò a Dio? Non lo so. Come gridò a Dio? Non lo so, se alzò la voce, lanciò un grido. Però la Bibbia parla anche del grido del cuore. Ora, noi possiamo gridare in molti modi, ma grida a Dio. Perché quando gridi a Dio, il Signore ti dà la soluzione. Sempre, sempre. Ogni volta il Signore dà la soluzione. E qual è stata la soluzione che ha data a Mosè? Perché avevano trovato l'acqua, quindi tutto felici, si erano buttati dentro per bere e non l'hanno potuta bere perché era avvelenata, era amara, non si poteva bere. Quindi avevano l'acqua, ancor peggio, avevano la sete, avevano l'acqua e non potevano salvarsi. Qual è stata la soluzione di Dio per il suo popolo? Più o meno. Cioè gli ha indicato un legno. Gli ha indicato un legno. E che fai con un legno? Vabbè, se ero io, certamente non avrei preso questo. Avrei preso un tronco, dico, grande, allora chissà che questo riesce a risolvere. E il Signore gli ha detto, buttalo nell'acqua. Buttalo nell'acqua. È incredibile che tu devi credere che un pezzo di legno come questo può risanare l'acqua amara. Altro che fede ci vuole qui. Qui ci vuole proprio l'intervento di Dio. Non basta la sola fede. Che cosa ha fatto Mosè? Lo ha fatto. Certo che era di fronte a minimo 3 milioni di persone, così si calcola che erano, di fronte a circa 3 milioni di persone. Prende un legno e allora tu pensi, va bene, forse lo alzo, forse facciamo una bella teca, forse che dobbiamo fare di questo legno? Buttalo nell'acqua. Quanto ridicolo si è sentito Mosè a fare una cosa del genere. Quanto stupido si è sentito Mosè a dover, davanti a 3 milioni di persone, per sanare le acque, buttare un pezzo di legno. Credo che il primo che ha bevuto è stato lui. A dire, vediamo, è vero o non è vero? Un pezzo. Qual è stata la risposta di Dio a Mosè? Un pezzo di legno. Qui ci voleva, che ne so io, un turbine dal cielo che faceva smuovere le acque, le faceva roteare, salire in cielo, poi scendere, riformare la pozzanghera o il lago che era, e lì tu poi vedevi acqua limpida. Un pezzo di legno. Non è incredibile il Signore? Un pezzo di legno, niente di più, niente di eclatante, niente di grosso, niente di importante, un semplice pezzo di legna. Ma il punto è il risultato. Non è tanto che cosa Dio ti chiede di fare, non è importante quello che il Signore ti chiede di fare. Ti può chiedere di fare una grande o una piccola cosa, una stupidaggine o una cosa da niente, non è importante. Importante è il risultato se tu applichi quello che il Signore ti dice. E il risultato qual è stato? Quel pezzo di legno, per quanto poteva essere un tronco, per quanto poteva essere un pezzettino, per quanto poteva essere qualsiasi cosa che noi vogliamo, ha risanato l'acqua. L'acqua è diventata dolce. È incredibile, è assurdo, diciamo tutto quello che vogliamo, ma è accaduto. E 3 milioni di persone hanno potuto bere con, non solo, poi tutto il bestiame che avevano. Voi immaginate quando era grande questo lago, questa pozzanghera, questo non lo so che cos'era, c'era dell'acqua. Il risultato, gettalo quel legno. Non te lo tenere, getta. Qual è il detto che noi abbiamo? Vedi, quando ti trovi di fronte a una situazione incredibile, impossibile, da non credere quello che Dio dice, quello che Dio chiede, noi quando ci troviamo di fronte a situazioni incredibili nella nostra vita, qual è il detto che abbiamo? Tanto 29, tanto 30, come per dire. Un passettino in più, ecco, un passettino in più. E questo ha detto Mosè, ha detto tanto 29, tanto 30, me lo butto. Cioè, sono già spubblicato, sono già criticato, tutti mormorano di me, tutti dicono male, me la faccio questa cosa. Facciamo quello che il Signore ci chiede, perché il risultato è l'acqua risanata. Il Signore, devi comprendere, dobbiamo comprendere questo, che il Signore si serve delle cose più stupide e più semplici. Noi vogliamo il segno dal cielo, noi vogliamo il tuoni e saette, noi vogliamo... Il Signore si serve, per dire, il Mar Rosso come l'ha diviso? Stendi il tuo legno, bastone. È la salvezza più grande, la salvezza per tutti i tempi. Dio come l'ha realizzata? La croce, un pezzo di legno, la croce. Con le cose più semplici Dio vuole ed opera nella nostra vita, nella tua vita, nella mia vita. Vedete, anche Gesù si è trovato di fronte a questo dilemma. Io ve lo voglio leggere questo passo, è in, Ebrei al capitolo 12, Gesù si è trovato davanti a questo dilemma. Voi lo sapete che quando si è trovato lì nel giardino del Getsemane, che cosa ha detto al padre? Ma papà, ma un pezzo di legno. Pezzo di legno era. Ma possibile che quel legno deve salvare tutta l'umanità? Quindi lasciamo stare, lasciamo perdere, facciamo passare questa cosa. Gesù non lo ha fatto. Sapete che cosa è scritto di Gesù? Vi ho detto che è in Ebrei, lo leggo io, in Ebrei al capitolo 12, il verso 2, ascoltate bene quello che si dice di noi e di Gesù. Di noi si dice, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Ascoltate. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce disprezzando l'infamia. Per quello che vedeva di dopo, Gesù è riuscito a lanciare quel pezzo di legno. Per quello che vedeva dopo, la gioia che gli è riposta, la promessa del Padre di sedere alla sua destra, lui ha potuto sopportare e vivere la croce e la salvezza per tutti quanti noi. Perciò butta quel pezzo di legno, non te lo tenere, per la gioia è scritto, non perché vedeva o viveva già tutto bello. Il miracolo più potente è per le cose più semplici. Se tu vai a riflettere nella tua vita, i miracoli più grandi che hai potuto vivere sono proprio nelle maniere più semplici, nelle preghiere più semplici, nelle richieste più elementari. Il Signore, parliamo di noi, il Signore ha dato a me, ha dato a te quel pezzo di legno, ha indicato a te e ha indicato a me quel pezzo di legno. Ora io ne posso fare due cose di questo pezzo di legno: fare come Gesù dice e buttarlo, oppure renderlo una reliquia e metterlo in una teca. È anche bello, io ce li ho, e infatti fra i tanti che ho preso questo, e farlo una reliquia e tenerlo lì. A che serve una reliquia? A niente. Può essere pure la reliquia, il chiodo di Gesù, che se vai in giro quanti chiodi si trovano, come l'hanno crocifisso a Gesù, non lo so, avrà avuto centinaia di chiodi. E le spine, non ne parliamo delle spine, per tante le reliquie che ci sono in giro. Gesù ha dato a te un pezzo di quel legno della croce. Gesù ha dato a me un pezzo di legno di quella croce, affinché noi lo possiamo buttare. Quel pezzo di legno non lo devi cercare nelle potenti operazioni, non lo devi cercare nei grandi miracoli. Quel pezzo di legno sei tu e sono io, per l'opera che Gesù ha compiuto dentro di me e dentro di te. Ci ha reso il suo pezzo di legno, cioè la pratica, la pagina scritta del suo Evangelo in questo tempo, in questo periodo e in quello che viviamo. Tu sei quel pezzo di legno. E lo so che non è che ci sentiamo tanto, lo so che non accettiamo più di tanto, ma Gesù ha operato su quella croce, ha operato su quella croce la salvezza per tutta la umanità, affinché tu ne prendessi un pezzettino e diventassi la pratica di quella croce. Il Signore ha dato a me quel pezzo di croce affinché io possa essere l'esempio per gli altri, affinché io possa essere il mezzo per far conoscere la salvezza di Cristo Gesù e lanciare quel pezzo di legno. E poi dopo vedremo che cosa ha fatto Gesù proprio sulla croce. Ha fatto tante cose, ma noi vedremo tre cose molto semplici che sono molto pratiche e molto vere anche per noi. Perché noi siamo, quante volte noi diciamo, noi siamo i piedi di Gesù, noi siamo le mani di Gesù, che vuol dire? Noi siamo l'esempio pratico di che cosa vuol dire vivere l'Evangelo. La nostra vita, il nostro parlare, il nostro essere padri, il nostro essere figli, il nostro essere mariti, mogli e quant'altro vogliamo, alunni, insegnanti o quanto siamo, operai o quello che siamo, quello è il pezzo di croce che noi dobbiamo lanciare affinché Cristo Gesù può essere visto, toccato e realizzato. Può risanare, quello risana le acque, quello risana le persone, l'opera che... Ma vediamo nella pratica, Gesù che cosa ha fatto sulla croce? Tante cose le nominerò io affinché diventa più semplice. La prima cosa che ha fatto, ha amato. Andando alla croce, ci ha amato. Qui ora io vorrei che recitassimo a memoria un passo della parola di Dio. Secondo voi quale passo dobbiamo recitare? Giovanni 3,16, che ha dell'incredibile, che ha dell'assurdo, che ha... Recitiamolo. Chi è che non conosce Giovanni 3,16? Posso vedere le mani, anche se non lo conosce, non l'alzare. Muovi le labbra e sembra che lo stai recitando, va bene? Ma prendilo, leggilo e osservalo per te stesso. Il Dio è incredibile. Gesù ti ha tanto amato, il Signore ti ha tanto, mi ha tanto amato, che ha dato, Gesù ha lanciato il suo, anche Dio ha lanciato il suo pezzo di legno, che era Gesù, affinché io potessi ricevere salvezza. Questa è la pratica. Quindi l'amore è il primo aspetto. Io lo so che l'amore... Lo dico sempre, mi prendono pure in giro da quando ho detto che si dice ai cagnolini amò, lo chiamano amore mio, gli parlano, semmai con il figlio non parlano, ma con il cagnolino sì. Non è quello l'amore. L'amore... Lo diciamo tante volte ed è reale. L'amore è dare. O lanciare, o buttare, come lo vuoi chiamare, è dare. È la stessa cosa. Mosè ha dato. Voi immaginate se Mosè avesse detto, vabbè che è un pezzo di legno e fammelo nascondere così non lo vedono. Che cosa sarebbe successo? Tutti sarebbero morti per un semplice gesto di aver ubbidito al Signore, alla voce del Signore, tutto il popolo è stato salvato. E lui stesso è stato salvato, perché lui sarà il primo che avrà bevuto. Quando tu lanci quel pezzo a ricevere vita, il primo sei tu, il primo sono io. Amare è dare, ma... Cioè, questo è quando noi abbiamo l'amore dentro di noi da parte del Signore. Ma amare è dare più che altro una opportunità. la stessa opportunità che ha dato a me, che mi sento migliore di tanti altri. Quando io mi confronto e mi guardo allo specchio, ma quanto sei bravo! Per non essere orgoglioso, non dico che sei il migliore di tutti, però uno dei migliori sì. C'è una storia che mostra come, non è una storia, è una favola, che mostra quello che noi siamo rispetto a noi stessi e che si è incollata, non se ne va, non, io lo voglio lanciare, lo lancio pure, ma non si stacca dalla mano. Noi soffriamo di narcisismo, più o meno quasi tutti sappiamo che Narciso era nella mitologia greca, non è vero, è una favola, va bene, però Narciso era il figlio del dio dei fiumi e di una ninfa, ma era riuscito. Devo andare veloce proprio. Sono al primo, sono tre punti che ho. No, andiamo veloce, hai ragione. Non mi sono reso conto del tempo. Andiamo veloce. Narciso era, come dicevo, il figlio del dio del fiume, mitologia, e di una ninfa. E era riuscito così bene che era molto bello. E tutti quelli che si innamoravano di lui, lui li scartava, lui li cacciava tutti quanti via. Io sono bello. E sapete come passava le sue giornate? Si metteva in riva al fiume e si guardava, si era innamorato della sua figura, della sua faccia. Ma mamma mia quanto sei bello, ma sei proprio bello vedendosi rispecchiato, ma sei il più bello di tutti. E a furia di stare lì, e a furia di dirsi che era tanto bello, sapete che cosa è successo? È caduto nel fiume, è morto. E sapete perché è morto? Sapete perché è morto? Perché l'amor proprio, perché l'orgoglio, perché l'avarizia non sa nuotare, non sa nuotare. Quando noi viviamo questi sentimenti, sappi che stai quasi per affogare. Non sanno nuotare queste cose, perciò è importante che noi vediamo che amare è semplicemente dare. Gesù ha detto, dare una possibilità. Gesù ha detto, ama, chi dobbiamo amare? No, è andato oltre, non il prossimo. Una categoria specifica del mio prossimo. I nemici! Ma come? I nemici? Io devo amare i nemici. Non riesco molte volte ad amare me stesso e ad amare quelli che voglio più bene. Il Signore mi dice devo amare i nemici. Non riesco, è difficile. Ecco il punto. Proprio perché è difficile, proprio perché non riusciresti mai, non riuscirei mai ad amare il nemico, allora è lì Dio che lo deve fare, non il tuo amore, ma l'amore che Dio ha messo dentro di te e dentro di me. A questo dobbiamo fare appello, perché allora siamo capaci di amare anche il nemico, anche chi non ci è vicino. Perciò getta quel legno. Se lo rendi una reliquia, muore. L'altro, il secondo aspetto, tu continui, è buono, mi addolcisce anche, non... Scusatemi, non ho guardato bene al tempo, perciò mi perdonerete se prendo qualche minuto in più. Sulla croce il Signore ha perdonato. Ha perdonato, incredibile. Ha perdonato quelli che gli stavano davanti. Non sanno nemmeno quello che fanno, Signore, perdona anche loro, come anche Stefano. Questo è l'esempio, ha perdonato l'umanità tutta, dando la possibilità. Ma che cos'è il perdono in realtà? Sai, lo possiamo spiegare in mille modi, ed è tutto vero, puoi prendere tante sfaccettature, ma a me piace sempre quello più semplice. Perdonare, hai mai gridato a Dio? Io credo di sì, sento tante voci rauche. Per tutte le volte, certo che abbiamo gridato a Dio, certo che abbiamo gridato a Dio, ognuno di noi ha voluto la risposta. E parlo di me, quello che è capitato a me, ho gridato a Dio in situazioni difficili, dove non c'era soluzione, dove non sapevo come venirne fuori, dove l'ansia e dove ogni altro sentimento negativo mi stava schiacciando, ho gridato a Dio. E sapete qual è stato la risposta di Dio? Aspetta. Specialmente quando hai qualcosa con un altro, che aspetta? Qui ci vogliono saette e fulmini dal cielo. Non aspetta. Oppure la cosa che più mi dà fastidio, quando il Signore in una situazione mi dà la risposta che più mi dà fastidio è: sorridi. Ma che risposta è? Che risposta è? Il fatto vero è che se tu lo fai, se io lo faccio, viene la soluzione di Dio. Se io sto zitto quando il Signore mi dice stai zitto, se io sorrido anche nelle situazioni più disperate, più difficili, più brutte, viene la soluzione, è di Dio. E l'esempio più conosciuto e più bello è anche quello del papà del figliol prodigo. Il papà del figliol prodigo che cosa si è sentito dire del suo grido a Dio? Si è sentito dire: accogli. Lui ha lanciato quel legno, quell'amore, quel perdono. Se lo fosse tenuto, avrebbe continuato a sperimentare ancora rancore, odio, amarezza e vendetta. Quello che, ecco, il risultato del fratello del figlio al prodigo, qual è stato? Lui non ha langiato quel pezzo di legno, non ha dato perdono. E qual è stato il risultato della sua vita? Aveva tutte le ricchezze di questo mondo e non godeva e non gioiva di niente. Non hai dato nemmeno un vitello per me, no, o forse un agnello, non lo so quello che ha detto. Incredibile, aveva tutto quello che io ho è tuo, diceva il padre, e tu non ne hai goduto per quel rancore. Ripeto, non sei tu che devi farlo, non sono io che devo farlo, non siamo capaci, non abbiamo la forza e non abbiamo tutto quello che ci necessita per poter amare il nemico, per poter dare all'altro la soluzione e risanare quelle acque. È Dio che lo deve fare. Il terzo punto riguarda la cosa più grande, anche se faremo breve, però questa è importante, siamo oltre parecchio, non vi girate, non guardate l'orologio, va bene? lo Spirito Santo. Gesù che cosa ha detto? Se io non vado a quella croce, non verrà a voi lo Spirito di Dio che vi guiderà in tutta la verità. E l'aspetto pratico dello Spirito Santo nella nostra vita, l'aspetto pratico dello Spirito Santo nella nostra vita, qual è? Che cosa dobbiamo praticare noi ogni giorno nella nostra vita? Lo devo lanciare veramente, eh? I doni sono le braccia e l'aspetto pratico che noi dobbiamo vivere dello Spirito Santo. Li vogliamo vedere? Vogliamo vedere i doni? E poi faccio una domanda, man mano che li leggiamo, circa i doni spirituali, va bene, andiamo al verso 7 per piacere, perché altrimenti leggiamo tutto il dall'1 all'11, andiamo avanti. La pagina va più veloce quando la giri, eh? Ora ciascuno, ascoltate, è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti a uno è dato, mediando lo Spirito, parola di sapienza. Quando io ho parola di sapienza, per chi serve? Agli altri. A un altro di conoscenza. Se ho conoscenza, per chi è utile? All'altro. Secondo il medesimo spirito, a un altro fede. Pure per me, un poco, va bene. Mediante il medesimo spirito a un altro dono di guarigione. Per chi? Per gli altri. Per gli altri. Paolo pregava per gli altri e guarivano, e lui si portava il malanno nel suo corpo. Incredibile. Quindi non dire, non guarisco io, devo pregare per gli altri. Il Signore ti ha dato il dono. A Paolo ha dato quel dono di pregare, imporre le mani, pregare per gli altri e guarire gli altri. E lui aveva tutte quelle sorte di malattie. La scheggia nella carne, gli occhi che non funzionavano bene, e così possiamo andare avanti. Vediamo ancora. Abbiamo di guarigione. Per mezzo del medesimo ha un altro potenza di operare miracoli. Per chi servono? Sempre gli altri. A un altro profezia. Le profezie per chi servono? Per gli altri. A un altro il discernimento degli spiriti. A un altro diversità di lingue. E no, questo vale per me. Dice che ricevo, quando io parlo in lingue, edifico me stesso. Però vai piano piano. Lì. E l'interpretazione delle lingue, per chi è? Allora nemmeno quella funziona per me. Vedete? Tutto, poi così continuiamo, ma tutte queste cose le opere quel medesimo distribuendo così. I doni dello Spirito Santo sono dentro di noi affinché noi li possiamo lanciare. E anche c'è un altro aspetto, veloce, andiamo a vedere l'altro passo. E vedete, qui parla anche dei frutti dello Spirito Santo. Peggio d'andare di notte. È incredibile, i frutti, i doni, ancora. Ma i frutti, guardate i frutti. Il frutto dello Spirito invece è amore, non narcisio, quanto sono bello. Gioia. Io vi do la mia gioia. E dare pace. Pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Per chi servono questi frutti? Sempre per gli altri. In pratica, quel legno non te lo puoi tenere. Lo devi dare. A questo il Signore ci ha chiamato. Getta quel legno, getta quel legno. Ma tu puoi anche dire, chiederti, come molto spesso, ma io ce l'ho il dono di guarigione per pregare per gli altri. E che ne so io? Non lo so nemmeno se ce l'ho io, lo devo sapere per te? Io so una cosa, per me, che io ho ricevuto quel pezzo di legno. Questo io so, e so che il Signore mi chiama a lanciarlo. Non è importante se ce l'ho, se non ce l'ho, è Dio che lo fa. Non sei tu, non sono io, altrimenti saremmo noi che faremmo una cosa del genere. Ora io termino qui, ho preparato, volevo terminare più con scintille e fuoco, però termino qui. Ho preparato un regalo per tutti quanti voi. Che pensate che ho preparato? Un pezzo di legno più piccolino. Io ci ho scritto, ci saranno poi all'uscita, per chi lo vuole lo prende. Io ci ho scritto sopra Esodo 15:25, che è il passo che abbiamo letto, getta quel pezzo di legno. A che cosa serve? A niente. Io lo uso come segnalibro, però ecco, mo mi viene, è buono usarlo, invece di usare questo verso il marito o la moglie, usa questo. Va bene? Usa questo, che è meglio, è molto meglio, è molto meglio. Usalo come vuoi, ma quello che serve, a che cosa serve? Semplicemente a ricordarci che il Signore ci ha dato fra le mani un semplice pezzo di legno e che noi siamo chiamati a lanciarlo. Noi il 23 saremo in piazza. Ci saranno 199 sedie, hanno mancato di mettere la mia. Vabbè. Dove sarai? Il 23? In piazza. Siete stati attenti, non seduti su quella sedia. No, ma anche seduti, anche seduti. E quanti incontri ci sono il 23? Due. A quale incontro devi essere? A tutte e due. Perché non vado per assistere a uno spettacolo, non vado per... Già facciamo tanto bello qui fra noi e serve anche in piazza. Lo sappiamo, accadrà quello che accade qui, niente di particolare. Perciò noi andremo là per essere operativi. Non sarai sul palco. Sul palco ci saranno della lode e adorazione, preghiamo per loro, il predicatore che conduce, ci saranno il grande schermo, sarà un evento che si vede in una maniera incredibile, ma il posto più importante che ci sarà il 23, sapete qual è? Non credo che sia stato detto. Il gazebo. Sarà montato un gazebo chiuso. Sapete a che cosa serve quel gazebo? Hai portato uno, ascoltate l'Evangelo, te lo porti poi nel gazebo a pregare se ha bisogno di liberazione, se ha bisogno di guarigione, se ha bisogno di liberazione. Tu lo porti nel gazebo. Tu lo fai andare nel... Quello è il posto, quella è la postazione tua, quella è la prima linea. Non è il palco la prima linea, ma la prima linea è buttare quel legno. E lì noi siamo chiamati a buttare quel legno. Ieri mattina abbiamo avuto un bel incontro di preghiera a mezzogiorno. Devo dire che tutti quelli che erano presenti al digiuno erano tutti magri. Sarà stato un caso, ma eravamo un bel gruppo, bellissimo. Continuiamo. con il digiuno e con la preghiera. E alla fine il Signore, abbiamo pregato in gruppetti, il Signore ha messo dentro di me una parola che è per tutti quanti noi, perché siamo stati sfidati anche a ricevere una parola da parte del Signore. E io ve la voglio dire questa parola. Il Signore mi ha fatto inquadrare il passo di Atti capitolo 2, il verso 37. Dopo che Pietro aveva predicato a più di 3.000, e più di 3.000 persone avevano fatto la decisione di accettare Gesù, poi tutte queste 3.000, queste persone sono andati dagli apostoli, sono andati da Pietro, e qual è stata la domanda che hanno fatto a Pietro? Fratelli, la prossima volta vengo proprio con un bastone lungo, fratelli, che cosa dobbiamo fare adesso? Andatele a leggere. Che cosa dobbiamo fare? E Pietro con gli apostoli subito hanno dato la risposta immediata, non hanno riflettuto sopra, perché lo sapevano quella che la risposta che dovevano dare. Non hanno pensato a che cosa dire, come devo addolcire il discorso. No, sono andati diretti. Ravvedetevi, battezzatevi e riceverete lo Spirito Santo. Punto. E il Signore ha parlato al mio cuore per tutti quanti noi, dicendo a noi: voi avete la risposta da dare, datela, lancia quel legno, datela. È chiara, è semplice ed è immediata. Non andate a cercare parole, non andate a cercare argomentazioni, non andate a cercare cose strane. Dite quello che è l'Evangelo puro, crudo e nudo, e dallo. A questo noi siamo chiamati il 23, ma ogni giorno della nostra vita. Amen? Vi siete stancati? Io sì. Vogliamo alzarci in piedi e ringraziare il Signore. Padre, vogliamo dirti grazie per la grande considerazione che hai di ognuno di noi e tuoi figliuoli. Noi non l'abbiamo di noi stesso, io per me lo confesso. Ma grazie per il rilievo che dai alla mia vita, hai dato e continui a dare, e fallo con ognuno di noi, affinché nella gioia possiamo vivere tutto quello che hai messo a nostra disposizione. E Signore, preghiamo ancora l'uno per l'altro, che possiamo essere un bastone, un sostegno, una forza, uno stimolo, una sfida, l'uno per l'altro, per applicare quella che è la tua chiamata, la tua voce per tutti noi. Grazie Gesù. Amen.